sapere che se non se ne voga, se ne voga, l'inchinuccia la rogavo se ne voga. Lascia stare, meglio l'inchinuccia che pagare la retta, capito? Delle bollette. Ah, c'è le bollette, uia. Non prendi capito. Ma quello, ma Tino non usa la bolletta, Tino fa andare a gasolio quella affare, sì. Tino fa andare a gasolio quella affare, anzi, riprendi. E io capisco la gasolio, lui che c'è il gas adesso, capito? Fa un buco in terra, scende a 1200 metri e piglia il gas del mare. E allora Fra, dammi un controllino di radio, mi interessa la radio, è qua, sappi che ho un microfono palmare. Guarda, io ti do una bella radio di 5, anche se hai il microfono palmare, è 9-10 di segnale. Poco fa eri una radio di 5 lo stesso, quasi, e 9-20, però c'avevi un rumorino sotto. Vabbè dai, no, questa è un'altra radio, un altro microfono, un palmare, quindi volevo sapere se era chiara, se era recuaro, dai. Più che recuaro, per me, avanti, se lo dice anche Gavino. Sì, Tino, la radio è bella, la radio è bella, Tino, il segnale è buono, il segnale qua da me è sì, 9.40. 9.3, allora, per l'esattezza stavo guardando, adesso sei 9.35 a picchi positivi, quasi a 9.40. La radio è bella chiara, la radio è chiara, almeno nel mio QTH, è così, non so, Franco, glielo riconfermi questa cosa o fai un passo un po' più lungo, ti? No, va bene, era giusto per... sapete che sto parlando come un camionaro, quindi non ho amplificazione, quindi ho il microfono molto vicino alla bocca. No, va bene Tino, va bene. Veramente poco fa era leggermente, mi sembrava leggermente più amplificata. Poco fa era più amplificata, non so, vabbè, io non ho toccato niente. Comunque è chiara, la modulazione è chiara, radio 5, io ti do 5 perché per me va bene, ti ascolto, è una bella radio. Va bene, allora lasciamo così, dai, lasciamo il mondo com'è. E allora, questa volta lasciala così, poi per domani notte la cambiamo, vero Gavino? Sì, no, secondo me, guarda, poi mettendoli, abbinandovi un bel microfono amplificato, cambia da giorno alla notte. Secondo me, se li metti un bel microfono amplificato a quella radio lì del tipo che poi ce l'hai, puoi fare una prova anche con quello e facciamo una comparazione, una regolazione di quella con quel setup. E vediamo più avanti. Adesso lo lasciamo così. Non c'è più andato in generale. Attone. Sono qua, aspetta che sto prendo l'apparecchio così lo sto modificando, 2 secondi, così mi dai contorno. Capo, fai. Caspita. Cosa ci vuoi fare? Antonello è vicino a Maricui, in Divi. Abito di fronte a Maricui, lo sai. Non è che sia, Adesso, più che altro, sto svoltando un secondo l'apparato, mi faccio l'apparatura e sto svoltando 2 secondi, così ti vediamo un pochettino come se sia meglio o se sia peggio. Capo, di sicuro devi uscire meglio. Allora, Tino. Oh, Fra, stavo notando, magari in questa radio, adesso provo l'altra, non ti dico niente, stavo notando la tua modulazione, che hai tipo delle piccole scariche quando parli, e magari, Gavì, faccio orecchio un pochino anche tu, perché non so se è qua o se è l'altra radio, prova a cambiare radio. Tino, scusa un attimo, ero in cucina, mi stavo facendo una cosa, ripeti, se puoi. stavo ascoltando a Franco che quando modula ha delle piccole scariche, ma sono leggere, però le sento. Non vorrei che fosse la mia radio, vorrei che anche tu controllassi, e adesso mi accendo l'altra, dai. No, sì, ce li hai anche tu, ce li abbiamo tutti, ci sono delle scariche in giro, nell'aria. Eh no, quando parla Gavino no, Gavino è pulito e non lo sento. Ti faccio un passaggio, allora, guarda un po' se senti anche da me queste scariche, anche tu Franco, non so, una prova di modulazione, una comparazione di presenza di scariche elettrostatiche. Vedete un po', avanti Tino. Ma guarda, io non le ho notate. A Franco le sento un pochino di più, ma proprio leggere, proprio non. Però l'orecchio mi è andato lì. Dai Franco? Cappa. No, delle piccole scarichette si sentono quando uno modula. Guarda. Però secondo me sono delle scariche, come hai detto tu, sono statiche. Non lo so che tipo di scariche ascolta Tino da me, ma non lo so proprio, perché a volte io sento scariche, che non so, a volte che non parla nessuno, ogni tanto sento delle scariche nella radio. Mi posso fare una domanda? Adesso per primo la faccio a te Franco, ma tu dietro le radio hai il cavo della massa collegato, la tua radio è collegata alla massa a terra, interrogativo? No. Positivo. Tino, tu ce l'hai collegate a massa a terra le radio dietro? Sì. Ok, perché io le ho collegate a massa a terra lo stesso, io le ho collegato, sono punticellato, è punticellato il cavo di terra, e in pratica ne va uno al paletto fuori di terra e uno va direttamente collegato alla terra della ciabatta. Secondo un parere che ti do io dovresti farlo, perché vuol dire tanto, tu quelle scariche lì te le senti perché non hai questa cosa qua, capo, boh, io non lo so perché non l'ho mai fatto, è la prima volta che sento questa fare qua. Ok, sì. Allora, in questo passaggio, in questi due passaggi che ho fatto apposta, hai sentito delle scariche da Franco o hai sentito delle scariche da me? No, io ti ripeto, a te no, non le sento, le ho sentite da Franco da poco fa, infatti l'ho avvertito, ma è semplicissimo, metti la radio in massa, io adesso ce l'ho collegate a una presa addirittura, al capo della massa della presa di casa, e sono più unite, però va a finire il paletto fuori da me, diciamo, che è interrato. Sì, però in questi due passaggi hai continuato a sentire queste scariche da Franco? Sì, le ho sentite leggere, le ho sentite, però ti ripeto, con questa radio e con l'altra magari me ne accorgo anche di meno, non so. Oh Tino, ma la massa io ce l'ho collegata nel coso dell'appartamento, nelle prese, ce l'ho la massa a terra, col picchetto fuori, però Davino stava dicendo ancora un'altra cosa, oltre a quella massa, fammi un'altra. Lui ha collegato anche la ciabatta, perché sta prendendo alimentazione da una presa. Certo, anche io sto prendendo alimentazione da una presa, da una ciabatta, e dalla presa. Ma lui ha collegato anche quella, a quanto ho capito. Così hai capito. Allora, io ho collegato le radio, diciamo dove c'erano le farfalle dietro le radio, della terra, ma vanno due cavi, ce ne va uno alla ciabatta, uno alla ciabatta e un altro cavo va al paletto di terra che c'è fuori dalla massa terra che ho fatto solo per le radio. Una è la terra domestica, una è la massa terra domestica che va, in pratica tu prendi una radio, no fra mi segui, tu prendi una radio e dietro metti due fili di massa terra, uno va alla ciabatta, diciamo, alla ciabatta dove, diciamo, alla ciabatta dove attacchi tutte le prese, e uno lo fai uscire e va alla massa terra che c'è fuori, alla quale sono collegate anche le antenne. Io ho messo a terra anche le antenne, mi segui? C'è la treccia da 12 mm che scende dalle antenne e va a quel picchetto. Poi c'è la terra, poi parte un altro filo che va alla radio e poi dalla radio va alla terra della presa. E poi ogni alimentatore è collegato sia alla massa terra di fuori che alla massa terra della presa. Mi segui cosa ti sto dicendo? In pratica ogni apparato viene collegato a due massa terre. No, io queste cose non le ho. Io ho solo una massa terra che parte quella domestica, come stai dicendo tu, che scende al picchetto direttamente. Poi capita, a fare questa massa terra, io mi trovo in campagna, è molto lontano, ed è anche farla a portare il cavo qua. Aspetta che è masso, d'accordo. Mettiamo la prima. Ora. Allora Fra, con questa ti ascolto benissimo, con l'altra magari ti tolgo fuori anche i sorci a sottoterra. Questa è un pochino più libera, diciamo, però non ne hai di disturbi. Questa è più bella anche la radio di quella che stavi usando poco fa. Accontentiamoci, questa è la battaglia. Avanti, capito. Aspetta che ti sto facendo una foto, Fra. Ok, guarda questa foto che ti è arrivata. Adesso forse ti è più presente. Anche a te l'ho mandata, sì. Sì, ho visto. Vabbè, ma io non ho... io sono attaccata alla rete domestica, diciamo, non mi interessa fare tutto ciò, cioè voglio dire, è tanto collegato con la massa, quindi va bene, mentre invece l'antenna l'ho presa e l'ho collegata a un paletto. Sì, vabbè, quello anche io, però è diverso, perché a volte anche un elettrodomestico della, diciamo, del casalingo può dare fastidio, soprattutto lo scaldabagno, mi segui? Anche se a terra a volte può dar fastidio. Comunque, vabbè, hai fatto questa cosa qua, è un appunto. Comunque ti posso dire una cosa, sì, che quella radio ha migliorato tanto. Meglio, lasciamola così, già va bene. Poi faremo delle prove, magari se dovesse capitare di buscare un microfono preampli della sua stanza. Vabbè, non mi interessa adesso, dai, l'importante è che abbiamo, cioè siamo arrivati a un compromesso. Niente, avanti Fra. Sì, l'ho visto. Sì, ho capito, però come farle? Devi, in pratica, un filo va fuori e un filo va alla terra dell'alimentazione domestica. Mi segui? Vedi che ogni radio escono due fili. Uno va al paletto, lo stesso lato va al paletto e poi un altro va alla linea, un altro va all'altra linea di casa. E così ti rivedi un po' di quelle. Sì, già l'ho visto com'è. Ecco, mi è venuto in mente un'altra cosa. Hai capito, Gabriele, cosa ti stavo dicendo io, di quelle strisce che stavamo parlando? Sì, certo. In pratica, c'è la linea della LC sotto, hai visto che in pratica sopra è lo switcher della ricezione dove c'è 9 più 20, 9 più 40 e sotto c'è 0, 10, 25, 50, 100, 150 e poi c'è il segno W, quello lì, hai visto che la mia LC, diciamo, ho detto un po' più parole tecniche, non arriva a 25, non arriva a 25 watt. No. Allora, lascia perdere, la LC tu non la devi superare, il picco massimo quando tu parli non deve superare la fine della, lo puoi mettere anche quasi alla fine, capito? Però i watt sono da 0, 10, 25, poi tu quando parli il picco positivo, quando ti si illumina i led rossi, sono quelli che fanno freddo, dove c'è scritto per dire 80, 100, non c'è scritto 80, però da 50 a 100 ti fa una stima. Ho capito, però sempre nella stessa linea dell'LC. Non c'entra niente, la LC tu gliela buttala, fai finta che non ci sia. Devi guardare 0, 10, 25, 50, 100, quella lì. Dove c'è scritto PVR che poi alla fine c'è i watt, capito? La LC è il picco di modulazione quando tu moduli, non deve andare oltre, che poi io lo faccio andare anche oltre molte volte. Guarda cosa accade, guarda, è il carrier quello lì praticamente, guarda. Cioè, però magari cosa succede? Che ho una portante fissa e sono al massimo di watt adesso così. Mentre invece quando io il picco di modulazione ecco, non lo faccio superare la LC, però i watt sono da 25 a 50, 50, 70. Perfetto. Allora tu devi andare dove c'è scritto il tasto DXM, andare nel secondo menu e ti dice quanti watt stai togliendo. Beh, se adesso allora io sono andato nel secondo menu e ho solo la scritta PVR e la scritta ALC non mi esce, adesso io sto uscendo con, mi dovrebbe dare, è possibile, 25 watt di portante bianca e 80 modulati. Bravissimo, ci sei arrivato. Ma non gli dà questa radio 80 watt in AM, questa radio in AM da massimo 40 watt. È così, guarda, pure l'LC tu la sali e cosa succede? Che per dire a me o a Franco, se tu la sali con il carrier proprio a manetta, anziché darti i picchi positivi ti dà il segnale fisso, capito? Che adesso magari arrivi 9.10 con picchi positivi a 9.20, quando tu sali il carrier ti dà direttamente 9.20 senza picchi positivi o negativi che siano. Positivo, però io se vado più di questa roba qua a me mi inizia a dare picchi negativi in alimentazione, mi segui? E sia i picchi negativi allo strumento in watt. Esatto, cerca di non far superare la LC, oppure la può anche superare di leggermente, ma non più del dovuto. Io adesso se vuoi ti faccio anche un video, la mia è proprio al limite della LC. Positivo, hai visto la mia, la LC com'è? La tua è più bassa, la puoi aumentare col carrier, vai col carrier, aumenta appena appena. Mamma la usi a futtidino, già andava usi. Vabbè, ma come meglio credi, te lo dico, volendo la puoi aumentare. Sì, ma arrivando, ma io credo di uscire bene, di no. Dai, la potenza va bene così, non secondo me, dai, non c'è neanche bisogno di tirarle a strappato. No, scusa Fra, se sto colonizzando un pochino, non è che non va bene, va benissimo, è come che ti danno, ti faccio un esempio stupido, è come che in banca ti danno il figlio e tu non lo usi, hai capito? Ah vabbè, sempre va vedendo che ti danno. Sì, ho capito. No, questa cosa della seconda, diciamo, della seconda opzione del DXM, io pensavo che era solo per vedere il segnale che stava uscendo nello smitter in trasmissione. Non pensavo che erano i watt, io infatti pensavo che era nel terzo menu e pensavo che era tutto fuori, che ti dava il watt e studiato dell'EC compreso, mi segui? Ecco perché ero convinto che erano intorno ai 25. Ho capito. No, c'è scritto, ma non c'è niente, ti dà il VAT, ok? Poi c'è click e ti dà quello delle stazionarie, quando tu accordi, se tu noti, ti dà anche le cose delle stazionarie. E poi ti dà la LC. Sì, adesso ho capito, lo vedi. C'è sempre da imparare. Questa cosa non la. Pensavo che era solo il livello in uscita in segnale e basta. No, adesso rilancio a Franco. Quando c'è scritto SWR, allora sei praticamente nel rosmetro dell'accordatore, capito? Quando trovi così, infatti lo tengo sempre, meno male, sotto controllo voli, perché se salgo dove c'è scritto 1, 5, 2, 3 e così via, allora quello lì è l'estrazionale. In quel caso dovresti accordare. Va bene, dai, scusa Franco, riprendi. No, potresti anche continuare a parlare, non c'è nessun problema. Dammi un controllo, come succede adesso che ho fatto la verifica? Guarda un po', meglio o peggio è con questa baracchina? Allora Antone, è la tua maniera di parlare, sei tu in verticale, però l'amplificazione ce l'hai. Ok, volevo sapere quello, questo è il 2009 che ha preso Giovanna, capito? Quindi lo stiamo provando adesso. Insomma, stasera stavo facendo un po' strano, a un certo punto stavo facendo sembrava un treno, e quindi adesso va bene, sembra che va di bene adesso, va. Ok, sistemato, allora tutto a posto. Va bene, a parte mia va bene, Santiago 9 con qualche picco positivo, 9.5, la radio è 5, perfetta. D'accordo. 9.5 a picchi positivi, radio 5, Antonello, mio QTH, vai Franco. No, non mi si è perso nelle curve, arriva 6.5-7 modulati, arriva, radio 5 però, anche se è come parla lui. Se succede l'apparecchio monogatto, cioè monogatto, il 3009 originale, normale, non con che modulo naturalmente, quindi con che modulo è un discorso diverso, ma con il 3009 la questione cambia. No, gli va bene comunque, là. Dino, quindi cosa facciamo? Lo buttiamo questo tunnel o lo lasciamo? Lascialo, che è meglio. No, vabbè, io sono sempre del parere mio, poi, e ognuno, va bene, è uguale, cioè, voglio dire, è bello, si sente bene, però quando ti piace una cosa, fai l'utile al dilettevole. Sì, no, positivo, no, era un parere che stavo chiedendo, cioè tu sei un possessore dello stesso apparecchio io, e poi quello che ho detto a Franco stasera, che siete, diciamo, molti più anni di me in frequenza, è un po', cioè, è più di neve, avete l'orecchio della radio quando va cambiato oppure quando è accettabile, quindi io sto chiedendo una comparazione a chi, dai, una comparazione che sia giusta. Sì, vabbè, allora, va bene, non... cosa ti posso dire? Provo a fare il 60 e poi ne riparleremo. Esatto, non è il massimo ma non è anche da buttare. No, per carità, no. Io, vabbè, è un tipo di microfono che lo vedo molto bene su alcuni apparati, ma su questi qua no, cioè, sinceramente parlando non lo vedo bene sugli HF. Positivo. No, ma l'importante è che non stia strappando, che non stia saturando e che vada sempre bene. Riprendi Franco. Quelli sono la battaglia, sono microfoni forti e vanno bene in un baracchino, diciamo un president o 48 e altri tipi di radio baracchini, là, come dice Tino, e purtroppo sono HF e HF, l'MC-60 dove curia? Guarda, io ho sentito, perché più che sentire non posso, cioè non posso, già posso, ma vuol dire, ho sentito l'MC-80, alcuni microfoni che ha provato Claudio, io facevo la modulazione di Claudio, glielo dico sempre, tu non devi volare al 60, poi il resto a tutti dimmi. Vabbè, quello lo dice anche lui, lo dice. Sì, sì, Claudio, ma lui è scemo. Esce un qualsiasi microfono che gli metti, qualsiasi radio che gli dai, è micidiale. Lui, come mi sa che il microfono ce l'ha nelle corde vocali. Sì, ma molte volte ha utilizzato altri tipi di microfono, sempre Kenwood, gliel'ho bocciata. Io ascolto sempre lo stesso uomo, per me, poi. Capi? Allora ti devi procurare un bel MC-60. Sì, al momento andava chi ci ora, fidati di cammino, che adesso tutti servono all'altro. Che già va bene anche questo, va bene anche questo qua, poi quando sarai visto, vieni piano, i passi piano piano, non ci abbiamo fretta, intanto se facciamo tutto assieme poi cosa facciamo? Quindi adesso proviamo questo qua, facciamo girare questo e poi vedremo di procurare MC-60 e prenderemo anche quello a tempo opportuno. Certo, la macchina quando la compri nuova per ricambiarla deve fare chilometri. Però fra, sai cosa succede? Che poi ti abitua a questa modulazione e quando metti un'altra cosa, no, la vedo prima. Non è vero, sto scherzando. No, già, guarda, io posso usare qualsiasi tipo di radio, questa è sempre la migliore, perché Tino, questa è una trattoria dai baracchini che usiamo. Sì, vabbè, accetta, io mi sono affezionato a un baracchinetto, la PR525, che è come il brutto praticamente, ma perché mi sono affezionato? Perché è una radio da battaglia, una radio che ci attacca quello che vuoi, non va in saturazione, lo porta bene, ha dei picchi positivi, da battaglia, però non lo metto mai a fianco a una di queste radio qua, cioè voglio dire, prende conto da tutte le parti, quello là, capito? Quindi non è che con questo già è più selettiva la cosa. Capo, quello sì. Vedi, quel microfono andrebbe bene al mio Galax, andrebbe bene, lì ci sarebbe uscirebbe meraviglioso, uscirebbe. Però piano piano. Sì, piano piano, che si fa tutto, no? Non bisogna avere fretta, perché sennò poi si fa il buco, poi si fa il buco. Bene signori, io per stanotte devo chiudere le trasmissioni, perché poi domani altrimenti la trasmissione me la sveglia. Adesso facciamo un po' di riposino. Io vi saluto a tutti, ciao Franco, ciao Tino, ciao Antonello, e a tutti che se vuole sono in ascolto, dai, ci presentiamo tutte alle prossime, domani se coincide, grazie dei vostri pareri, e facciamo tutto, alla prossima, Tino, qualsiasi cosa, hai il numero, e la vediamo, anche tu Franco. Buonanotte a tutti, ciao, riprendi Franco. Capo, dai, ciao Gabriele. Purtroppo io volevo andare domani, però il principale mi ha dato una settimana di ferie perché ha detto che me lo meritavo e allora non ci vado domani, no? Mi rimango a casa. Va bene così. Avanti Tino, comunque buona giornata per domani, buon tutto Gabriele e buon lavoro. Avanti Tino. Sì, anche io devo approfittare, fra. Ciao Gabi, ciao, già ci sentiamo, già ti faccio sapere. Anche io devo approfittare perché stamattina, perché sono uscito un pezzo da casa. Poi ieri notte abbiamo fatto tardi con Gabino, tra una cosa e l'altra, facendo prove e quant'altro, e ho riposato ben poco. approfitto ora che ormai che ascoltate fra ti lascio in compagnia di Antonello se vuole di parlare, se no mamma va a letto e ci vediamo le prossime. Dai, riprendi fra, aspetta i saluti poi vado via. Ciao Antonello, buonanotte, tante cose belle, ciao ciao. Ciao, sì, ci sentiamo domani al limite, non c'è problema. Ciao Tino, buonanotte, buon tutto, dai, e buona giornata per domani, ce l'ascoltiamo per le prossimine. Antonè, ce la ascoltiamo, dai. Alle prossime, me ne vado anch'io a Nanna, me ne vado, che sono già le 11:10. Buonanotte e a risentirci. Ok, ciao, buonanotte a tutti quanti, allora ci sentiamo domani, ok. Alla prossima, statemi bene, buonanotte a tutti. Ehi, ciao ciao.